magari più felici. Un'avventura che è durata poco, noi come i rami nello stesso fuoco. Siamo in due, che bella amico sei. Come le stelle dallo stesso cielo, cadute insieme come dadi in mano. Siamo in due, che bella amico sei. Anch'io la penso come te, provarci ancora ci farebbe male. Non c'è verso questo film, ormai deve finire. Anch'io la penso come te, potremmo essere più sinceri. Ognuno per i fatti suoi e non pensare più a ieri. Una discesa fin troppo veloce, noi come legni della stessa croce. Siamo in due, che bella amico sei. Come lancette ferme nell'attesa, come monete della stessa spesa. Siamo in due, che bella amico sei. Se non posso starci